American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Ciao amici di Runtime, sono Simone, ovviamente Simone Pizzi, insomma l'uomo dietro Runtime Radio e tanti altri progetti insieme a tutti gli altri della grande band che contraddistingue le nostre avventure, diciamo avventure che oramai durano da 12 anni e che praticamente ci hanno permesso di conoscere tante persone, di stare tutti quanti insieme e via dicendo. Bene, il 6 febbraio faccio 50 anni, sono 50 anni che sono su questo triste, infame mondo e per fare questo vorrei fare una cosa speciale, fare una trasmissione dove racconterò delle cose, racconterò un po' di me, farò ascoltare magari la musica che ho sempre amato e tutti quelli che sono stati i miei punti di riferimento, magari le fonti di ispirazione e magari anche aneddoti divertenti, cose simpatiche. Dunque, il 6 febbraio alle ore 16 sarò in live con voi per almeno un paio d'ore e mi piacerebbe ricevere da voi domande, curiosità o anche semplici riflessioni in audio in modo che io possa ascoltarle insieme a voi durante la puntata, rispondere, riflettere e fare anche qualche risata insieme, ovviamente. Qualsiasi cosa vi viene in mente da dire o da chiedere in audio, registratemela e mandatela a runtimeradio@gmail.com. Nel soggetto della mail scrivete per Simone Pizzi o compleanno di Simone Pizzi o diretta compleanno di Simone Pizzi, insomma in modo che sia chiaro il fatto che è una mail dedicata ovviamente alla diretta che faremo. Detto questo, io vi ringrazio, non vedo l'ora insomma di passare queste due ore insieme e di festeggiare il mio compleanno con voi, perché questa cosa ha molto più senso di quanto voi non possiate immaginare. Grazie, ci vediamo 6 febbraio ore 16, runtimeradio.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E Carlo Sant'Agostino, perché questa è la puntata di Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo! Ciao, buonasera a tutti. Tutto bene Simone? Stai bene? No, tutto bene? No, sto bene. Come sapete già dalla prediretta. Ricordiamo che nonostante tutto noi siamo qua. C'è chi ha rischiato la multa, morte. L'autobelox, chi la morte. Chi ha l'emicrania e chi invece è all'estero rapito. Esatto. No, in Italia, ma siamo tutti in gamba. In gamba. Che simpatico ragazzo. Bene ragazzi, allora runtimeradio.it, come sapete insomma, se ci state ascoltando potete interagire con noi su dirette Runtime cercandolo ovviamente su Telegram in modo che potete avere una azione diretta insomma con noi durante la trasmissione, scrivere cose, contribuire con i vostri ricordi e intanto salutiamo giusto Claudio e Roberto Tomaiuolo. Ciao Roberto Tomaiuolo. Che è ubiquo Roberto. Ciao Roberto Tomaiuolo, ciao, buonasera Roberto. Ciao a tutti e votate la sigla preferita perché vincerete niente. Però votate. Però potremmo organizzarci una volta con un premietto, una cosa anche simbolica. Vincerete un prosciutto di mortadella. Sì, certo. Carlo Sant'Agostino che canterà la vostra sigla preferita. Ecco. Intanto si è unito alla chat Marco Guerrato, che salutiamo ovviamente. benvenuto naturalmente, benvenuto, e Marco, spero che sia insomma per ascoltare questa meravigliosa diretta. Quindi dicevo, dirette runtime, potete cercarci anche su Facebook e scrivere qualcosa, ma soprattutto se andate su runtimeradio.it, dove sicuramente state ascoltando questa trasmissione, c'è il pulsante anch'io dove potete contribuire se volete ovviamente al nostro progetto, e lì trovate tutti quanti i riferimenti. Come avete sentito sicuramente dalla presigla, c'è questa iniziativa, il 6 febbraio io farò appunto questa diretta. Se vi va di mandarmi mandarmi domande, oppure anche se sono commenti, oppure qualsiasi cosa voi volete, magari tramite un file audio, scrivete a runtimeradio@gmail.it e specificate insomma nella Simone, ma domande anche personali, così, anche particolari, per domande di ogni genere, faccio un po' il raccuglia della situazione. Okay. Questa sera anche risposte ti possiamo mandare, potete mandare soprattutto le risposte, che le domande sono buoni tutti a fare. 42. No, ma lo volevo dire io. Vabbè, ma questa era talmente scontata insomma. Ciao Gianluca, ciao Marco appunto, che si è appena inserito nella chat e che ovviamente ci è venuto a salutare. Allora, questa è l'ultima puntata per sempre che faremo di sigle di Grazi e Mazzi con tanti file audio. Questo è una promessa. Sì, allora, prometto, chiedo perdono a Simone che ovviamente stasera ha problemi vari. Beh, poi in realtà, però, queste settimane c'è quella degli anni 80 degli spot TV, quindi mica tanto. Vabbè, ma il problema non è la quantità di cose, come ho detto, se voi mi scrivete le cose l'ultimo giorno, quando io ho già preparato tutto, dopo vi tocca di bei morti, capito? Insomma, non è una cosa bella, insomma. No? Vai, Carlo. In gamba. Vabbè, volevo scusate anticipare sempre che se sentite dei rumori strani, c'ho la stampante 3D in azione che non posso fermare con le solite stampi di 16 ore, perché ogni tanto si sente qualche rumore. No, non è per ora non si sente, ma di solito uno evita di fare una stampa 3D quando deve fare una diretta radio. Di solito, però stamattina la stampa. Ah, ok. Però finisse prima. Dura tipo 16 ore. Quindi, 16 ma stai ore. Parlando di Davide? Come fa lui a non fare una registrazione per 16 ore quando è sempre in registrazione? Esatto, è vero. Hai ragione anche tu. Sai quanti video ho fatto con la stampante che andava? Poi dopo con il filtro solito di Isotope sparisce. Qui adesso non possiamo usarlo purtroppo, reale. No, ma ci pensa il mixer, fa già un buonissimo lavoro di suo, insomma. Bravo. Bravo, bello, mixer. Va bene, comunque, Carlo, benvenuti a questa ultimissima puntata sulle sigle. No, anche perché poi dopo un po', no? Cioè, nel senso, cambiamo tema. Avevamo preparato un documento in cui c'erano varie puntate e quindi siamo arrivati finalmente alla fine di questo ciclo di puntate. Okay. Perché ricordiamo, noi siamo partiti con la primissima puntata sulle sigle, che era stata dedicata a quella sui robot, quindi tutte le sigle dei cartoni di robot, dei robottoni, che era la 1-02, prima stagione, seconda puntata di Quando Eravamo Futuro. Quindi se volete recuperare le sigle dei robottoni, riascoltatevi quella puntata. Dopo di prima che la CIA ce la farà levare perché succederà un giorno. No. Dopodiché c'è stata la puntata di Simone, di cui io mi ero completamente dimenticato e me l'avete fatto ricordare, giustamente ammazzato. Pensa quanto ti è piaciuta. No, è la mia memoria che ormai sta svanendo, che era la puntata sulla TV dei ragazzi, la puntata 9, sempre della prima stagione, dove abbiamo ascoltato già sigle di programmi per ragazzi degli anni 70, 80, 90. E poi abbiamo avuto la prima puntata del terzetto di puntate, di cui questa è la terza e conclusiva, quindi la puntata numero 10 della prima stagione, dove avevamo le colonne sonore dei film. Dopodiché abbiamo avuto la puntata, l'ho persa, dov'era? Non mi ricordo, vabbè, c'è stata film, la puntata, telefilm, poi robottoni, film, poi cartoni animati, no, robottoni prima, l'ho già vabbè, detto, okay. L'elenco era giusto. Siamo arrivati comunque alla terza e ultima conclusiva. Però tu dovresti fare un po' di backstage, perché se no il buon Simone ci uccide tutti, esatto. Perché ovviamente noi continuiamo ad aggiungere sigle, perché, esatto. Perché poi cosa succede? Che tutti ci scrivono, ma come mai non avete esatto. Ma come mai non avete messo? Perché sono centinaia, cioè voi sono centinaia e noi mettiamo quelle che magari per noi a sono... sentimento, esatto, bravo, a sentimento. Forse... Infatti, io non ci credo che ne faremo solo tre. magari la prossima stagione prendiamo un po' di fiato un pochino. Stasera è emerso il fatto che stiamo mettendo solo sigle per uomini, non mettiamo le sigle per le quindi per invidiamo ragazze. Invidiamo fra qualche tempo, magari non troppo presto, però fra qualche mese, un paio di mesi, invidiamo una ragazza degli anni 70 e 80 che vuole partecipare e farci una sua playlist di sigle dei cartoni animati, ovviamente più specifica, insomma la insomma, facciamo fare la puntata a tutte le nostre mogli. Vi immaginate una puntata con solo le nostre sarebbe mogli? Carino, sarebbe carino. Sì, ne usciamo, però andiamo a mangiare. Certo, noi stiamo a mangiare una bella birra. Tra l'altro, però, facciamo un po' di backstage e diciamo la verità: cioè, sì. Carlo adesso ve l'ha razionalizzata la cosa, ma in realtà la cosa non è nata così. Carlo ha detto: voglio fare la puntata sulle sigle. Ha fatto un documento dove dentro c'erano 600 brani, io ho detto scusa Carlo, ma come pretendi che sia possibile una cosa di 8 ore? Allora la dividiamo in due, ma come in due? Qui abbiamo una roba che la SIAE ci dà per tutta la vita. Ci ma sega. Sì, infatti, per questo andate su runtimeradio.it e cliccate sul tasto anche io, perché insomma dovrei comprare un sacco d'arance. Davide, tu per come ti ha trattato la SIAE non penso che sei contento. No, mi sono disiscritto dalla SIAE quest'anno. Esatto. Fatto bene. Cioè, tu gli dici, i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Scusa. I miei soldi. Li ha Ramazzotti. Comunque, come è impostata la puntata? È impostata sul fatto che andremo più o meno cronologicamente, ho cercato di dare un ordine cronologico a queste sigle, a esplorare sigle di cartoni animati, quindi esclusivamente cartoni animati, quindi non telefilm di cui abbiamo già trattato, ma non robottoni, quindi tutte quelle che sono state escluse dalla puntata sui robottoni, quindi non sentiremo le grandi sigle di Goldrick, di Giga, eccetera, perché quelle le abbiamo già sentite tutte in quella mitica puntata. E qual è la prima canzone che ho messo? Ne ho messo una che Simone mi ha detto, ma l'abbiamo già messa, perché no, però mi ero sbagliato, stavolta mi ero sbagliato. Sì, in realtà non era così, perché è vero che è Super Gulp, di cui abbiamo già parlato nella puntata dei programmi dei ragazzi. Però questa era la sigla finale di Super Gulp, che a me piaceva tantissimo. Eccomi qua. Mi chiamo Giocolo. Io sono felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo. Io sapevo la memoria. Rigongolo la notte. Sì. Mi chiamo Giocolo. Che poi era questa specie di rimbalzone celeste. Vai. Mi sentite? Sì. Sì, parla però se ti sentiamo. Con parole tue. Non sentivo più niente, ragazzi. Ah, okay. È andata via la linea. Vabbè, adesso ci sentiamo. Ti abbiamo sempre sentito cristallinamente. Parlavamo di sto giumbolo, che è questo tizio che rimbalza celeste. Io lo sapevo a memoria. Era un personaggio che arrivava. La trasmissione era presentata, vi ricordate, da Nick Carter, no? Che aveva i suoi collaboratori, quindi c'era il cinese e l'altro personaggio grosso, di cui non ricordo il nome. E alla fine, quando finiva la trasmissione, dicevano: perché non cantiamo la nostra sigla finale? E arrivava questo giumbolo, che non si sa da dove saltasse fuori, che la cantava, diceva: no, la canto io, e la cantava lui, la sigla finale di Super Gulp. E comunque io avevo 8 anni all'epoca, e quindi era una canzone per bambini. E come dice giustamente Simone, l'avevamo imparata a memoria. Sempre nel 1978 c'era un altro grande cartone animato che andava in onda in quegli anni nella Rai di quell'epoca. Sogno erotico. Non sogno erotico, però diciamo che era un cartone che ha avuto un successo in Italia sicuramente trasversale, e l'abbiamo visto tutti a quell'epoca, ed era Heidi. E la sigla di Heidi, cantata da Elisabetta Viviani, è rimasta prima in classifica, credo, per 2 anni di fila, il 45 giri. Allora, c'è da dire 2 cose su Heidi. Una, che penso che tutti l'hanno cantata almeno una volta nella propria vita. Esatto. E 2, che ha avuto milioni di declinazioni, cioè nel senso storpiature, insomma, satire, robe genere, ma anche cori da stadio. Quindi insomma. Ah, ci hanno parlato. È una canzone che praticamente fa parte del nostro DNA, dei più o meno cinquantenni adesso. Tra l'altro, a me Heidi piaceva poi, cioè, devo dire. L'abbiamo visto tutti più volte, credo, anche. io credo che questo abbia fatto consumare tanti di quei mangiadischi di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. Assolutamente vero. E vabbè. Tutti intonatissimi. Sì, ma proprio di quell'intonazione. Va bene, come ho detto l'altra volta, in questa puntata non parliamo di robottoni, però i cartoni animati di fantascienza comunque sono inclusi, di cui non abbiamo parlato l'altra volta. Infatti l'altra volta ho detto: come mai non avete inserito, che cosa? Una sigla che anche questa è un mito. Capitan Harlock 1979, uscito sulla Rai. Ok, Capitan Harlock. Stiamo storpiando come pochi lo sa. Anche questa è stata storpiata. Questa, ma il problema, allora, pure questa è bello proprio il pezzo, no? È una di quelle canzoni che hanno riproposto tantissime volte nelle discoteche negli anni 90, 2000 e anche oltre, insomma, no? Quando, sapete, quando arrivava la fase della festa che era il revival e il DJ cominciava a mixare le canzoni dei cartoni animati, questa era un must insieme a Goldrake e anche prima dell'arrivo di Cristina D'Avena. Sì, vabbè, quello ne parleremo poi alla fine, ovviamente. Non ci arriveremo, ci arriveremo con la cronologia, arriveremo fino a... sudando ci arriveremo. Io vorrei fare un appunto sul Capitan Harlock, perché l'ho già detto in altre trasmissioni, a dire il vero, Capitan Harlock era uno di quei cartoni animati che quando lo vedevi da ragazzino rimanevi un po' così affascinato, perché questo personaggio così tenebroso, questa canaglia, questo personaggio così anche un po' che sembrava cattivo, no? Cioè, nel senso, ti metteva un po' di inquietudine, un po' di terrore, no? Cioè, nel senso, questo è proprio un cattivone, no? Questo Capitan Harlock. Poi, se tu lo riguardi oggi, Capitan Harlock era il meno coglione in un mondo dei coglioni. Perché veramente il Capitan Harlock oggi è una cosa brutta da vedere, cioè nel senso ti casca proprio il mito che tu ci avevi dell'epoca, no? A differenza invece del film animato, quello in CGI che hanno fatto, che quello mi è molto piaciuto. Vabbè, quello è moderno, quindi è ovviamente è un remake attuale. Però qua con Capitan Harlock nel disco si introduce una moda, tra virgolette. Chi cantava la sigla si chiamavano la banda dei bucanieri, ovviamente, che cantavano di un pirata e quindi si sono chiamati la banda dei bucanieri. Questa è una cosa che succede poi spesso anche dopo, nel senso che molti cantanti che fanno la sigla, gruppi che fanno la sigla, si costituiscono in quel momento per quella cosa. Sì. Infatti succede per esempio con la sigla dell'altro grande cartone animato che dopo Heidi abbiamo visto tutti alla Rai, che era Remy e le avventure di Remy, che è cantata appunto dai ragazzi di Remy. Quindi questa Dolce Remy, metti la mano qui, c'è la scimmietta con due palle, così diceva. Sì, diceva proprio così. Non ricordo. Per il mondo tu fai. Suona Remy, la parte poi, ballare fai. La scimmietta e il cane, forza Remy. Che ricorda un po' una canzone dei Boniè, però. Sì, beh, è del 79, quindi è... Vabbè, diciamo che queste canzoni, se tu le vai a ascoltare, non tipo, non nella traccia melodica, però diciamo nell'insieme molto si assomigliano, no? Anche la canzone di Capitan Harlock, che c'ha quelle trombe, no? Che insomma ricordano anche un po' gli altri dei robottoni e via dicendo, insomma. Tra l'altro Remy viene da un lungometraggio, cioè viene da un romanzo se non ricordo male. Sì, sì. Ma esatto. C'era anche un proprio un lungometraggio. C'era anche un film, sì. Remigio, che ragazzi, la, la morte dentro, cioè io bambino con le lacrime. Ma anche il cartone, anche il cartone, anche il cartone, sì, sì, era sì. Così, era il più sfigato della galassia, Remi. Ma le lacrime, quelle inverosimili, era un cartone, cioè, da piangere. Perché un bambino doveva soffrire in questo modo? Cioè, ma non lui, perché poverino, no? Ma dico noi che lo guardavamo, ma perché? Scusa. Perché poi erano quelle cose che soffrivi a lungo, perché duravano una vita, non finivano mai, non sapevi mai cosa andava a fare. In particolare, dai, cioè almeno Bella e Sebastiana aveva il cane, questo veramente niente, la scimmietta. Sì. No, no, come c'era la scimmietta, c'era cioè, pure lui ce l'aveva il cane. La scimmietta con mi ricordo Duvalde, la scena, no? che c'erano una patata e se la dovevano dividere in tre, no? Che... Sì. Una cosa terribile, tra l'altro la giustamente proprio. Luca ci dice in chat delle cose sempre molto allegre, orfani e paraplegici Trovatelli e Trovatelli. No, in realtà tutte le storie cose. Giapponesi, ragazzi, i giapponesi ci andavano a rota questa sì, roba. Sì, ecco, una cosa che non abbiamo detto, fino adesso a parte Super Ghoul che era una produzione italiana, esatto. Una bellissima produzione italiana di cartoni animati, la stragrande maggioranza dei cartoni animati che vedevamo in quegli anni erano anime, come si chiamano adesso, solo che all'epoca li chiamavamo cartoni animati. Cartoni animati, esatto, bravo. Ma però erano e io continuo anime. A chiamarli così, tra l'altro, quindi diciamo. Esatto, sono le date di quelle abbiamo visto in Italia o la data proprio no, Italia, del... Italia. Io sempre do la cronologia italiana, quindi non vuol dire che comunque si parla di cartoni animati che sono sicuramente antecedenti. Sì, sì, sì, sì, assolutamente, ma non di tanto alcuni, perché sia Heidi che Remy sono usciti quasi contemporaneamente, anche Capitan Harlock. Per esempio, invece la prossima, che è una canzone che io ho messo perché questa canzone è un segnatempo, perché è una cosa che quando uno ha 50 anni si ricorda questa canzone, cioè tu gli dici Bia e... Come inizia subito uno appena gli dici via la sfida della magia? Inizia subito con l'alfabeto. Questa piace a mia moglie. A te così. Ma tutti la sanno cantare questa qua. Beh sì, l'abbiamo cantata tutti anche questa. Cioè pure bravo poi ragazzino che canta, perché io sarei impicciato. Chi è il cantante? Sai che allora si chiama I Piccoli Stregoni, quindi anche lì era un gruppo costituito, non so il nome del cantante, non ho indagato. Ce lo dirà qualcuno in chat adesso. Esatto. Dunque, quello che mi premeva dire era appunto collegandomi al discorso di Davide di prima, che questa Bia che noi abbiamo visto nel 1980-81 in realtà è un cartone del 74 ed è una delle prime maghette, no? Quelle che poi hanno dato origine al diciamo al filone delle maghette. Sì. Giapponesi, che, di cui siamo abituati. Allora, io me la ricordo poco, ma mi ricordo la sigla sicuramente. Ricordo la sigla canzone. È impressa nella nostra memoria, sì, sì. A lungo termine. Sì. Il cartone. Anche perché comunque il brano, ragazzi, cioè, nel senso, grande, tanta roba, cioè, nel senso, alla fine costruire un brano che rimane 50 anni nella tua memoria, cioè, è incredibile, insomma. Mia moglie prima quando ha letto l'elenco, quando è arrivata lì non ha neanche letto la sigla. Il cantante è un tale Andrea Lovecchio. Aspetta, sarà morto probabilmente. Ha scritto Lucia San Siro per Vecchione. Ma dai! E infatti la scrittura è buona di questa. Sì, ma c'è anche la voce con lo stile un po' che lo ricorda. Ricorda okay. Questi cantautori dell'epoca. Sì, rimanete sempre nel filone dei cartoni animati giapponesi, come li chiamavamo noi. La prossima canzone l'ho inserita perché era una delle poche dell'epoca, nel 1980, che non era in italiano. Era cantata dagli Argonauti ed è la sigla di Star Blazers del 1980. Ah no, questa era quella italiana. Io questa ce l'ho. Va benissimo. Gira in giù, ruota in su, per lo spazio eterno, misterioso come il suo blu. Il viaggio è lungo, anni luce, ci guida il capitano Avatar. se coi razzi con missili nucleari. Nucleari, era tutto nucleare all'epoca. Sì, sì, è vero, è vero. Era meglio sentire quella in inglese nella lingua. Era comunque, dai, ragazzi. Va bene. Vabbè, e poi tra l'altro piano d'effettoni sta roba, eh? Cantata dagli Argonauti, questa canzone, quindi era sempre anche qua un gruppo costituito per cantare Star Blazer. Beh, come quelli, i Cavalieri della Tavola Rotonda, no? Quelli dei, come i Cavalieri della Tavola Rotonda. E poi abbiamo infatti i Ragazzi dai Capelli Rossi. Cosa può cantare un gruppo che si chiama i Ragazzi dai Capelli Rossi se non la sigla? Che questa è bella, raga, cioè. Questa qua però è proprio chiata dai capelli. Questo è un plagio totale. Plagio di Babylon. Ah, giusto, Rivers of Babylon, sì, è sempre uguale, identica. Vabbè, devi considerare che per esempio gli Orival Onion hanno riciclato un paio di canzoni per tipo Galaxy, no, era quella dei Bulldozer là, non, no. Sì, sì, ma erano sempre loro. Qua invece si tratta di un plagio però che Belli Rossi, ma lui dice di non averli mai sentiti Bonnie M. Tra l'altro io posso dire una cosa, a me Anna dei Capelli Rossi piaceva, oh, ditemi che sono strano, che mi guardavo invece che i robottoni, mi guardavo Heidi e Vanna, mi piaceva. E tra l'altro mi è piaciuta anche molto la serie che hanno fatto su Netflix, la... Ma tu avevi la Barbie con i capelli rossi? Non esisteva la Barbie con i capelli rossi. Però a me, sì, per esempio, sì, la sì, puntata vero, che mi è rimasta impressa era quando lei si vuole tingere i capelli e diventano verdi. Non so se ve la ricordate. Vabbè, comunque, dai. Vagamente. Vabbè. Vabbè, dai, Anna dei Capelli Rossi, allora, tanta roba. Passiamo sempre a un altro cartone animato giapponese, che però non sembrava giapponese, perché era uno di quelli come i Barba Papà che sembravano una cosa diversa, però in realtà era anche questo molto giapponese, ed è cantato da una cantante che è Katia Svizzero, che poi con questo pezzo credo che ci abbia fatto pensione per lei, per i suoi figli e per tutti. Io piango qua. È l'unica che ha fatto, non ne ha fatto altre. No, però ne ha venduti talmente tanti pezzi. Io piango qua, questa, ragazzi, ve lo dico, perché questo è in assoluto, senza nessuna possibilità di smentita, il cartone animato che ho amato di più in tutta la mia vita. Non so, so strano, raga, cioè quello che pare. Ma a parte che ero appassionato di api da ragazzino, no? E poi questa positività, cioè era un cartone animato. Io neanche sapevo che era giapponese, pensavo che fosse nord europeo addirittura come cartone animato. E se è veramente giapponese, è anche un controtendenza, perché come vedremo poi con un'altra ape che ho io odiato a morte. Che dopo, anticipiamola, l'avevo messa di seguito. Sì, sì, no, lo so, però dico, cioè, che ho odiato a morte. Come i Lego e Plastic City. Allora, il cartone animato è giapponese, cioè l'anime è giapponese, però in realtà il cartone è tratto da un libro per bambini che di un certo Waldemar Bonsters che è tedesco. Ah, vedi. Quindi in realtà è tratto da uno scrittore tedesco il libro, però il cartone è completamente giapponese di Hiroshi Sato, famoso. È veramente bello, e siccome è poetico la pemaia. Allora, e vabbè, aspettate però che se vogliamo far paragone con quell'altro la devo andare a recuperare. Eh sì, è lì sotto, l'ape maga. Sì, no, lo vedo. L'ape maga che era l'attivo di clonare l'ape maia, però era l'ape maia in versione remi, perché era tristissimo. No, era una cosa, infatti era la controtendenza, perché mentre l'ape maia era comunque un cartonato solare, positivo, no? Cioè nel senso... L'ape maga invece era la tragedia, praticamente. Magari tra l'altro ho scoperto recentemente che... Aspettate, La Pamaga MP3. No, vabbè, mi faccio prima a fare così perché sennò è un casino. Comunque, era un tentativo, come tanti tentativi, di fare un grande successo, di replicare un grande successo fatto da altri. Esatto, è questa. Sì. Tra l'altro, io ho scoperto che la Pamaga era maschio. Sì, esatto. Ah, anche questo è un cartone. Ma lo scopro adesso. Vagabonda. Poi facevano schifo proprio i disegni. A me non. Zero proprio questo cartone animato. Cioè lo guardavo, però era un insulto per me, era un derby. Ave Maia diceva Ave Maia. No, ma non che mai detto che ero un maschio, cioè già non mi piaceva. Adesso proprio sei un maschio, ma come te vesti? Sigla, questa è veramente morte. Questa ogni puntata brutta. Finiva che piangeva, cioè una cosa devastante, incredibile. Cioè. Vabbè. Comunque, dopo queste due api, insomma, del 1980, io ho inserito un piccolo blocco di cartoni animati perché ho pensato. In realtà stiamo vedendo tutti i cartoni animati giapponesi. È vero che erano la stragrande maggioranza dei cartoni che noi vedevamo all'epoca, che venivano trasmessi nella nostra TV, però c'erano anche cartoni animati che arrivavano dagli Stati Uniti. Non tanti, ma c'erano. Qualcosa perché la maggior parte dei cartoni animati, in realtà delle serie TV e cartoni animati che arrivavano da noi, erano americane, erano comunque cartoni vecchi che andavano al cinema, no? Che poi venivano riprodotti in televisione, quindi gli spezzoni che venivano proposti al cinema dei vari Questa subito sei partito con Super Chicken. A questa c'è. Questa era Super Pollo, Super Chicken. Io non me lo ricordo, però devo dire la verità. Però guardando la sigla me la ricordo. Super Chicken era stato famosissimo, oltretutto una sigla lasciata in inglese, quindi non tradotta in italiano. Troppo sbatti. Che invece abbiamo saltato, perché l'abbiamo saltata? Era la canzone in italiano dell'Uomo Ragno, Spider-Man, l'Uomo Ragno, l'abbiamo già messa. Sì, l'abbiamo però saltata. Voglio dire che il cantante di quella canzone, che si sentiva che era un cantante inglese, cioè non era un cantante italiano, quindi pronunciava con una forte, che molti confondevano con Mal, no? Il cantante di Furia Cavallo del West. Sembrava Mal, in realtà si chiama Shuki Levy e ho scoperto essere un grandissimo compositore di sigle internazionale, che aveva composto anche quella di Spider-Man. E solo perché sei tu, l'aveva cantata in inglese e anche nelle altre lingue, sempre lui. È una cosa incredibile. Beh, questo era quello che, come dicevamo, quando è arrivato il Salone nel cinema, che Stanlio Olio rifacevano le stesse scene al cinema in tutte le varie lingue, no? Comunque, se cercate questo Shuki Levy, vi stupite della quantità enorme di sigle, di programmi. Ha fatto la sigla di Alf, la sigla dei Power Ranger americani, la sigla di un sacco di cartoni, di colonne sonore, di è una produzione smisurata. Scusate, non me l'aspettavo tanto. E comunque questa sigla ce la ricordiamo tutti, ce la cantiamo ancora noi. E vabbè, no, te l'ho messa perché ho detto vabbè, dai, c'è sto, dai, sennò poi faccio quello che però prendo. L'altra di cartoni animati americani che noi vedevamo in Italia con la sigla in italiano, secondo me il migliore era George, Re della Foresta, perché che anche questo non ho mai sentito. Ma sai quindi cos'è? Mi sa che tu qualcuno ha messo Scooby-Doo americano. No, vabbè, okay. C'era anche Scooby-Doo, ma era in americano, era in inglese la sigla, se non mi ricordo. Non c'era una versione italiana. Questo è George. Ok, la canzone me la ricordo, quindi questa hanno fatto anche più recentemente un film a cinema tratto da questo cartone animato. Evitabile. Ed era una specie di Tarzan imbranato, in pratica. Esatto. Beh, sì, si sente dall'urlo. Esatto. E poi gli altri mitici erano Gli Impossibili. Gli Impossibili era una sigla che non era propriamente cantata, ma quasi recitata, parlata. Ma siccome Gli Impossibili erano una specie di supereroi che però erano un gruppo musicale tipo Beatles, aveva sotto questo, diciamo, riff musicale e la sigla ce la ricordavamo, e almeno io mi ricordo che all'elementare la recitavamo tutti dicendo Coilman, Frankenstein Junior e Gli Impossibili. 10. Ah, questi 9, sono, ricordo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, sì, questi mi ricordo. Gli Impossibili, Coilman. L'audio del merda, però. Poi, Davide, se ti capita, dà un'occhiata anche alla chat. Sfida le sue molle. Gli Impossibili, Fluidman. Fluidman. Gelata in una goccia la forza di una roccia. Di una roccia. Impossibili. Ultimen. Beh, tipo erano i Super 4. Sì. E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Impossibili! Impossibili! È bello che ancora ride lui, capito? Cioè. Beh, erano bellissime quelle sigle, me la ricordo a memoria, comunque. Anche era bello, sì, erano carini, anche se ovviamente noi abituati all'animazione giapponese, manga, eccetera, trovavamo quella americana ormai vecchia, superata già all'epoca, no? Eravamo un po', come ho già avuto modo di raccontare, noi in Italia eravamo un po' più avanti delle altre nazioni perché abbiamo avuto questa invasione di anime, di manga, in maniera anticipata rispetto al resto del mondo. Quando adesso tutto il mondo vede anime e manga, in realtà lo vedevamo praticamente solo noi in Italia, qualcosina in Francia, qualcosina in Spagna, ma la maggior parte arrivava qua in Italia. L'Italia è stata la prima nazione del mondo dopo il Giappone come quantità di anime esportati negli anni 80 e 90. E infatti anche il prossimo, anche questo sembrava poco giapponese come disegno, ma in realtà era giapponese ed è Capitan Futuro, che aveva una sigla anche qua mitica, molto molto bella, ed era cantata da un gruppo che si chiamava i Micronauti. Duro. Che hai detto, Davide, scusa? Che la travisata qua veniva facile con il duro, duro. tra l'altro il mood di queste canzoni era più o meno sempre quello, poi alla fine. Però questa è carina, ma non è memorabile come... Allora, pensate che stiamo rimanendo, tutte queste sigle che abbiamo sentito fino ad ora e anche un pochino delle prossime sono del 1980, cioè praticamente nel 1980 è arrivato l'universo intero, cioè abbiamo subito una quantità di cartoni animati che poi è durata per anni, perché poi hanno fatto repliche su repliche, riedizioni, eccetera eccetera, e non tutti li abbiamo visti contemporaneamente noi, però in realtà risalgono, arrivano tutti tra l'80 e l'81. E ci ricordo in chat che i Micronauti hanno anche fatto la sigla di Daitar 3. Assolutamente vero, infatti l'avrei citato dopo, ma Daitan 3, come sapete, l'avevo già sentita nella puntata dei grandi robottoni. Lupin III, scusatemi, avevamo già messo la sigla di Lupin? Non o mi no? sembra, sai. No. Mi ok, sembra. Allora Lupin III c'è, lì si apre un capitolo, infatti, perché Lupin ha avuto tante sigle, di cui noi ricordiamo sicuramente la prima originale, che in realtà non era una sigla fatta apposta per il cartone animato di Lupin III, ma si trattava di un brano cantato da un gruppo, se non ricordo male, francese, correggetemi se sbaglio. No, sei già andato a quella. Questa è la prima. Ma no, ce ne sono tre, cioè Lupin III, Lupin III Planeto MP3, Lupin III gli incorreggibili, scusa, Lupin MP3. Scusa, io seguo quello che sta scritto sul documento, scusa. E c'è scritto questo sul Lupin III, Lupin III MP3, Lupin III MP3, devo andare a prendere quello. Ok, va bene. Il primo è Planet O. Planet O è un disco Planet che non c'entra niente con il cartone animato dal punto di vista del cartone, ma è diventata la sigla del cartone animato, ed è un disco che, se andate a indagare e vedere cosa c'è scritto nel testo, vi rendete conto che noi cantavamo questa sigla in inglese senza saperne il significato, ma in realtà è un disco che parla di qualcosa di abbastanza scabroso, perché il contenuto del testo di Planet O è dedicato al sadomasochismo. Bello, in un certo senso, guarda che e noi le travisavamo sempre portandole sul masochismo, quindi ascoltiamo perché save you, we will break your soul. e noi ci immaginavamo fuggito in questa voce. Beh, ci stavano un paio di scenette pure comunque dentro Lupin. Sì, comunque Planet O in pratica sono questi alieni che arrivano dal pianeta O, dove O sta per orgasmo, che in pratica vogliono renderti schiava, farti provare queste cose in modo che tu poi, e la ragazza dice no, non toccatemi, io sono una ragazza, una brava ragazza eccetera, e poi alla fine si fa traviare dal pianeta O. E quindi è mica stupida, scusa. Vabbè, questo è il testo della canzone, che è assolutamente per adulti, ma noi non ne sapevamo nulla, eravamo completamente inconsapevoli di questo e ci piaceva tantissimo. Sì, e guarda, pensate che questo, e fino ad oggi continuiamo a non saperlo, a dire il vero, però. Esatto. Questo 45 giri è uno dei 45 giri più ricercati nelle sigle, soprattutto nella versione di Planet O, sigla di Lupin III, vale abbastanza, diciamo che non ha valori allucinanti, ma comunque non è un disco. Si fa pagare. Ma dopodiché, vabbè, è arrivata. Aspetta, c'è Roberto sotto che vuole chiedere qualcosa. Io vado dai, come un treno. Cioè, la puntata in cui Fujiko viene legata a un tavolo e sfogliata dalle manine, e c'è un'altra che è stata proprio cambiata, in cui hanno addirittura cambiato il doppiaggio perché compariva un gay. Quindi non andava bene. Non andava bene, hanno tagliato delle scene, hanno cambiato il doppiaggio, l'hanno fatto sembrare donna, solo che a quel punto la puntata non voleva più dire niente, quindi idiozia. Beh, io mi ricordo, c'è una puntata che poi penso che non so come è stata censurata poi in Italia, dove loro praticamente alla fine finiscono nudi nel letto, perché lui dice finalmente ma la trombo, invece lei poi alla fine riesce a impasticcarlo e lui si addormenta e lei se ne va, insomma, quindi sì. Quindi alla fine ci diciamo che la prima quando sono state trasmesse la prima volta erano non censurate, quindi noi abbiamo visto tutto, compresa la puntata con le manine eccetera. Poi dopo, quando ci sono state le ritrasmissioni su Italia 1, sui circuiti successivi, sono state tagliate, censurate eccetera eccetera, ed è stata cambiata anche la sigla, che è diventata quella di Lupin, l'incorreggibile Lupin, che vabbè, lascia il tempo che trova in realtà, come almeno secondo me. Io ero innamorato di Planet O come sigla iniziale di Lupin III. Vabbè, però pure questa era la cioè, se la ricordano tutti, io essendo appassionato della prima, non mi piaceva, quindi ne facevi una questione proprio di principio. Ma non lo so, ero piccolo, però io. Però vedi che c'è il richiamo, perché pure qua fa quindi c'è. Quindi. Sempre il pianeta O. Sì. Alla fine stava la nota. Sì, che poi io pianeta O lo vedevo in un altro punto, perché la O mi ricorda qualcos'altro, tipo di bucato. No, voglio sapere. Se c'è lì attorno Lupin. Che poi ricordiamo che Lupin, riconoscibile nelle varie serie non soltanto dal tratto del disegno, che cambia abbastanza, insomma, anche il colore della nel tempo, cambia il colore della giacca e della cravatta, no? Quindi sì. Quella classica, no? Rossa, poi verde, poi rosa, insomma, prima verde, poi rossa, poi di nuovo verde, insomma sì, poi rosa, cambia diverse impostazioni. Oltretutto in Italia c'è il famoso problema Fujiko Margot Fujiko. Sì, esatto. Perché in realtà è sempre stata Fujiko, ma non si sa perché nella prima serie l'hanno lasciata Fujiko, nella seconda l'hanno chiamata Margot. Quindi da noi eravamo convinti che fossero due personaggi diversi, in realtà era sempre lo stesso personaggio. Sempre la buona vecchia Fujiko. Sogno erotico di ogni ragazzino dell'epoca, insomma. L'abbiamo conosciuta così, mi ricordo, l'hai amato. Che costavano un botto all'epoca. Cosa? C'erano le bambole di Fujiko? No, la serie completa dei DVD alla Yamato. Importantissimo di Lupin, però, è anche la sigla finale, che è conosciuta come Lupin Fisarmonica, no? In realtà la sigla finale è bellissima e ce la ricordiamo tutti, era quella che stavi mettendo prima al posto delle prime due. È cantata da purtroppo da Irene. No, non è manco questa. È quello YouTube che ti ho il link. Ok, cioè, sì. L'hai messa per prima. L'hai messa per prima, hai sbagliato. Sì, aspetta, dopo. Stai buono, stai calmo, non ti devi agitare. Perché sennò comunque, tu intanto dici dai, tu dici, io chi è l'autore? Irene è cantata da Irene Vioni, che ci ha lasciato 8 mesi fa. dopo una malattia, aveva 78 anni ed è stata la voce storica dell'orchestra Castellina Pasi di Reggio Emilia, Correggio per essere precisi. È stata un'icona degli anni 60-70 come confondibile voce del liscio, del folk. Lissio, del Lissio Siori, Lissio. Che si ascoltava sempre insieme in macchina, sulle le abbiamo parlato la settimana scorsa con Fausto Papetti. Su questo link, cioè, proprio la Papetti, Castellina Pasi, era le cassette da automobile. Ah beh, ne parlavamo l'altra volta, di Fausto Papetti. E questo qua, per assurdo, è il più grande successo. Bellissima voce. Bella voce, tra l'altro molto franzosa come canzone, molto stilosa, dai. Carlo, non canta, Carlo. Stile francese, ricorda quasi il telefilm. Cosa? Esatto. Stile francese ricorda quasi il bellissimo telefilm di Lupin con la con le bellissime sigle. Mai però visto, non ne parliamo stasera. Penso mai visto il telefilm di Lupin, penso. Non posso hai visto tutto quanto. Vabbè, abbiamo fatto la sezione Lupin che ci voleva, perché Lupin è Lupin, insomma, Lupin è un mito. Adesso passiamo a una delle canzoni che, anche se era un cartone animato dedicato al pubblico femminile, anche questo noi maschietti l'abbiamo visto, stravisto, cantato. Ma per motivi diversi. E si tratta del grandissimo Mimì e le ragazze della pallavolo, che aveva una sigla che no, tutti ci ricordiamo. No, no, Mimì aspetta, e ragazze della pallavolo, punto MP3. Allora... aspetta, dammi un secondo perché mi sono un po' incasinato. La canzone di Charlotte, no, quindi comunque sto spoilerando. Comunque, ragazzi, pallavolo con le famose palle ovali che, esatto, le tiravano, bravo, e la settimana dopo arrivavano, esatto, dall'altra parte del campo. Ma quella è la versione femminile di Shingo Tamai, dai. Aspetta. Praticamente, sì, infatti ci sarà anche poi Shingo Tamai. Dai. Le scene della palla in movimento le hanno riciclate, erano sempre quelle, no? Perché viaggiavano, facevano il giro del pianeta e poi finalmente arrivavano. Perché i campi compreso quello di pallavolo lunghi 2000 metri. Quello è più, esatto, da Ollie e Benji, però aspettate. Sì, comunque Mimì e le ragazze da pallavolo è più vecchio di tutti questi cartoni che state dicendo. Infatti, se guardate poi anche il disegno di come era disegnata Mimì, vi renderete conto che è un bruttino, disegno, sì, molto più brutto rispetto agli altri. Un po' più, esatto. È una particolarità di cui molti all'epoca non ci facevamo caso. Ma se lo riguardi adesso ti accorgi che Mimì ha gli occhi disegnati bene, tutti gli altri personaggi gli occhi sono abbozzati invece. Ah, si concentravano sul personaggio. Sì. Beh, si trattava. Beh, se tu vedi questa cosa poi è un po' riportata su Ollie e Benji, dove tutti i personaggi di contorno sono molto più abbozzati. A parte, vabbè, su Ollie e Benji nero quasi. Ci sarebbero dati un sacco di cose che era nel torrento come cartone animato. E comunque questo è Mimì, tra l'altro, ecco, qui usciva fuori questo complesso psicologico dei giapponesi, che negli sport erano delle pippe infinite, e quindi costruivano sti cartoni animati dove loro si allenavano nel dolore e nel sangue, e fino a diventare ovviamente i più forti del mondo, insegnando chiaramente lo sport a tutto il resto del mondo, no? Questo è proprio un... ed eliminando gli occhi e mandorla. Vabbè, quello la sempre hanno fatto, cioè nel senso. Allora, questo cartone ha avuto anche il merito di far crescere un'intera generazione di ragazze che volevano andare a giocare a pallavolo. Infatti la nostra nazionale di pallavolo è forte, forse grazie sia a Mimì che poi al cartone successivo. Vabbè, sempre sulla pallavolo. Questa è una tua deduzione del tutto arbitraria, no, insomma. Che il fatto che moltissime ragazze... Mila e Shiro. Quella era Mila e Shiro, era scritto anche sui giornali, cioè boom di iscrizioni se andate a cercare i giornali dell'epoca trovate queste notizie, perché questi cartoni portavano proprio all'identificazione con il personale, quindi portavano poi, e questo era un cartone di grande successo in Italia. La prossima canzone rimaniamo sempre nella sezione cartoni animati per bambine, che però guardavamo anche noi. Io lo guardavo. E ci ritroviamo forse insieme a un altro, che è Lady Oscar, che vedremo dopo. Questo è uno dei cartoni che credo che abbiamo visto tutti E la sigla io la trovo molto molto bella ancora oggi da ascoltare. Ma non, musica. Non solo bella, penso. Zucchero filato. Era un po' irrealistica, no, simpatica, no. Allora, diciamo, diciamo due cose su Candy no. Candy. Prima di tutto, Candy anche Candy è tratta da un romanzo. Sì. Quindi tutti questi. Questi grandi epopee dei cartoni animati giapponesi, molte sono tratte da romanzi di formazione, compreso Candy Candy, chiaramente. Vabbè, Anna dai capelli rossi e Remy e via dicendo. La cosa bella di Candy è che a parte la sigla è molto aderente alla parte iniziale del cartone animato, molto quasi western, no? Cioè nel senso, sì, c'è queste sonorità un po' folk, no? Perché ovviamente lei sta in questa, insomma, in questa, nella prateria, ovviamente su a questa casa delle orfane, insomma. Se non ricordo male, in Australia, giusto? Parte dall'Australia, arriva in Inghilterra. Sai, questo non me lo ricordo, però sì, comunque. Comunque lo spirito è abbastanza quello, e devo dire che è stato, secondo me, la prima soap opera che noi abbiamo visto da bambini, perché comunque alla fine sì, dopo sì, diventa un po' soap opera, no? Nel senso. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che poi anche qui è stata pesantemente censurata in Italia. E modificata più che altro. Modificato, censurato, perché nell'originale giapponese, soprattutto quando cresce, ci sono scene che qua non potevano essere. Sì, ma anche il finale in Italia, nella prima edizione, è stato completamente stravolto, perché non poteva essere secondo la morale, no? Che comunque poi alla fine l'uomo che lei ha sempre amato, poi alla fine era. Spoileriamo che ormai non credo che sia più un grande spoiler. È bello, Deo. Guarda che c'è ancora gente. Non viene dall'Australia, quella è Charlotte. Ah, vedi, mi sono confuso. Charlotte che corre felice. Quindi America, America. America. Di Charlotte. No, Inghilterra, sì, è vero, perché loro la famiglia adottiva erano tutti dei lord, quindi c'erano tipo, insomma, dei sì. Vabbè, comunque, dai, Candy Candy. Vabbè, qua andiamo. Allora, quando mi dicono il cartone animato giapponese sul calcio, tutti pensano Oggi e Benji. No, ma in realtà, assolutamente no. Cinquantenni, no, perché noi che siamo più vecchi non pensiamo Oggi e Benji, ma pensiamo a Shingo Tamai. Shingo Tamai, con la canzone, esatto. Super Boys, campionissimo, perché questa era. Shingo Tamai era una versione, diciamo. Oliver Onions come cantante. Eh beh, sì. Esatto. Davvero. Raccontiamo l'incipit di questo meraviglioso cartone animato. In un mondo dove nel Giappone nessuno sa che cos'è il calcio, perché te lo fanno capire proprio all'inizio, insomma, che nessuno conosce il calcio, costruiscono questa nuova scuola dove cercano di aggregare tutti i ragazzi della periferia. E all'interno di questa scuola c'è un campionissimo del Giappone di calcio che nessuno ha mai conosciuto e soprattutto neanche, cioè, che insomma chiede di, cioè, cerca di mettere su una squadra di calcio, e squadra di calcio nessuno sa che cos'è, no? Tra questi, che insomma alla fine c'è un tizio, Shingo Tamai, che fondamentalmente è un teppista, è un brigante, cioè è uno zozzone che rompe il cazzo, tira le caccole alla gente, mena così a casaccio, insulta i presidi, insomma un teppista che poi alla fine trova la sua redenzione nel calcio, cioè fondamentalmente. E la cosa bella di Shingo Tamai è che dimostra il fatto che i giapponesi di calcio non ne sapevano un cazzo. Però un cazzo. Non ne sapevano veramente un cazzo. E inventavano cose. Le regole a cazzo. Tipo, io mi ricorderò sempre una scena da ragazzino del portiere accovacciato dentro la porta che si alza e l'ho parata, non ha toccato la rete, quindi non è gol. Non funziona così. Non sapeva le regole. E non solo, poi mischiano la visione loro delle arti marziali col calcio. Sì, infatti sì. Super Boys è bellissimo perché in realtà ci sono, loro giocano a calcio con le mosse segrete delle armi delle arti marziali, no? C'è il super tiro rotante in cui lui si mette, fa una mossa, salta, fa la giravolta. Diciamo che questo poi lo portano su tutti i giochi sportivi, su tutte le, diciamo, i cartoni animati sportivi, ma in particolare ricordiamo Shingo Tamai, che secondo me, essendo il più antico di tutti, perché comunque da noi è arrivato negli anni 70-80, però penso che sia degli anni 60, se non sbaglio, penso sia tipo dei primi anni 70. Sì, ok, quindi considerate che era il cartone animato sportivo che ha dato il via al fatto che la gente doveva soffrire per allenarsi. E mi ricordo la famosa scena dei giocatori sdraiati per terra con il camion che gli passava sulle gambe per rinforzare i muscoli. Cioè, ragazzi, cioè, esatto. Ed è allora finiva il sulla traversa. È uscito nel 70-71. Esattamente, ho beccato. Pallone che finiva sulla traversa e poi il tiro dall'uovo sbattuto, di che cavolo era? Che poi si tirava. No, ma allora, vi ricordate quello che si allenava, che doveva rinforzare i polpacci, e per farsi rinforzare i polpacci si faceva passare sopra le gambe col trattore? Ma quello lo dicevo pure col camion. Sì, quello era, lo stavo dicendo prima. Esatto. Ah, ok. Cioè, era proprio tutta la squadra sdraiata e si doveva si rinforzavano i muscoli delle gambe facendoci passare le ruote del camion. Del camion. Ma è una famosa tecnica che tutti noi abbiamo provato. Voglia, io in particolare. Tu oggi hai rinforzato l'anca e il fianco con la tua mossa stessa. Esatto, l'ho rinforzato benissimo. E vabbè, no, vabbè. Allora, ragazzi, era figo. Io quando ero ragazzino lo guardavo. Vabbè, sì, dire. Sì, però... guardavamo tutti. Anche perché poi c'era il pallone a banana. No? A banana, sì, esatto. Lo calciavano talmente forte che il pallone si deformava e diventava una banana. E però, il campo talmente lungo che si vedeva la curvatura terrestre. Sì, sì, pure quello però era già più da Olly. Quello Benji. Sì, era più Olly e Benji, meno, sì, c'era meno su Super Boys, però c'era anche lì, insomma, cioè che correvano per tre quarti d'ora per arrivare da una parte. Sì, ma più che altro la cosa bella di questi cartoni animati non è tanto il fatto che correvano tanto, è che parlavano mentre. Esatto, mentre correvano. Sì, sì, parlavano. E facevano le riflessioni, facevano tutta una cosa filosofica, esatto. Perché se io in questo momento guardo verso destra, lui pensa, e tutto il mondo si ferma col fatto. È proprio come diceva l'allenatore, e devo fare questa mossa, allora sarà meglio che io prenda intanto sta banana che viaggia. Sì, era un film bellissimo. Beccatevi questo, ragazzi, beccatevi questa. Marca. Cuore di stagno, bimbo latino, quando diventerai bimbo. Un po' bassina, però il massimo. Pensa che ce lo siamo venduti agli americani, Pinocchio, adesso della Walt Disney. Questo invece era giapponese sì. Completamente giapponese, ispirato al nostro Pinocchio, ma la storia non c'entrava più niente. No, è vero, è vero. Era completamente inventata. Però la sigla era. Che bella. Piacevole. Sì, la canzone. Diciamo che il cartone faccia schifo, devo dire la verità. Cioè, nel senso. Va bene, su Pinocchio non è che ovviamente con la gang di Pinocchio il nome del gruppo. Sì, ovviamente, certo, perché il gruppo come si chiama? C'era Luigi Lopez con la gang di Pinocchio, che cantava Luigi Lopez. Io l'avrei chiamato i burattini, ad esempio. E doveva esserci la gang di Pinocchio featuring Luigi Lopez. Va bene, poi questa è un'aggiunta che ho messo perché me l'ero dimenticato, ma era che fa. Bellissimo. Mamma mia, la merda sta audio. Anche qui in stile mal anni 70. Esatto. Vabbè, che un po' andava pure di moda, faceva fighissimo. Il suo nome che sapete, ve l'ho già raccontata a Roma come finiva quando uno diceva so Ken Farco. A Farco, un farcoglione, insomma. Vabbè, dai, comunque Ken Farco, okay, quella di cui mi sono confuso prima, cioè un altro cartone animato che era un po' Candy Candy Bis, meno successo di Candy Candy, ma comunque anche questo stravisto, che era Charlotte, che è appunto quello che mi sono confuso prima, che partiva dall'Australia con una storia, se vogliamo, simile, quindi orfanella, eccetera eccetera. La canzone, anche questa ce la ricordiamo tutti. Anche lei sfigata, di Charlotte. Questa è la canzone di Charlotte. La cantano tra i boschi e lei risponderà. Questa è la canzone. lisciarlo. Vai Carlo, raccontaci, io questa me la ricordo veramente poco, devo dire. Ma guarda, l'ho messa perché mi ricordo la canzone, essendo una cosa sulle canzoni l'ho messa, ma a dirti la verità il cartone me lo ricordo quasi per un cacchio, come ho detto era il cartone delle bambine. Mia moglie sicuramente. Tua moglie sicuramente. Anche questa era più per le ragazze, secondo me. Molto, sì. E... però la prossima canzone è aspetta, la sola nome... faccio un esperimento, aspetta scusa un attimo. Perché questa il cuore caldo del profondo. Anche se non era quella che stavo cercando. Perché tempo fa stavamo parlando del fatto che c'era una canzone che io sapete, vi ricordate, no, che c'erano queste serie dedicate a Huck, Barry Finn, a Tom Sawyer, ah, no? Sì, a Tom Sawyer, sì. Che sì, c'era, sì. Che a me piacevano tantissimo, e c'era nel, dello zio Tom. Nel 45 giri di uno di questi, che c'era una canzone che si chiamava Mississippi, e che io però l'altra volta poi l'avevamo trovata insieme a te, Carlo, non so se tu te lo ricordi, e poi dopo allora vi dico, no, esisteva questa canzone, Mississippi, Mississippi. Mo, prova a cercarla mentre voi va parlate bene. Intanto comunque la prossima canzone che volevo mettere, come sei scortese, è un nome, sei una scortesia, no, no. Vabbè, e non ho capito un cazzo, frega un cazzo, fa culo. Testina. Vabbè, la prossima canzone stavi dicendo. No, perché cosa volevo rimettere? Mississippi? Ma io non mi ricordo niente, l'avevo trovata veramente io. Sì, te. L'avevamo trovata, sì, e tu mi hai fatto vedere pure la copertina del 45 giri, figurati, pensate, vabbè. Ma me addirittura. La... comunque prima della fine della trasmissione la trovo sicuro, perché l'ho trovata l'altra volta. Vabbè. Comunque Augusto Martelli è un nome che tutti noi conosciamo e anche lui ha praticato parecchio nelle sigle dei cartoni animati e soprattutto per la Rai, giusto Davide? Penso che tu conosca meglio. Fingi di saperlo. Ah sì, sì, sì, è vero, è vero. Certo, certo, certo. E l'orchestra Augusto Martelli ha fatto la bellissima canzone dei Gatchman, La battaglia dei pianeti, su Rai, non mi ricordo, 1, 2, 3, 4. Rai 2. Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme, allarme, allarme. La battaglia dei pianeti spacca e spazza tutti i cieli. Cinque incredibili ragazzi vanno forti in più dei razzi. Hanno le ali come uccelli, sono liberi e ribelli. La famosa squadra G. Vabbè, G. Tutta la scala. Qui pure c'è il falco, c'è Claudio Ergufo, anche Civetta, Stam ragazzi del L'Avvoltoio, dimmi, scusa Davide che dicevi? Ero no, no, niente, dicevo che Carlo Carlo sicuramente, Claudio ci ricordava che Fidenco aveva scritto anche Sam ragazzo del West, non so adesso Fidenco se Fidenco. Ah, bellissima, Sam ragazzo del West era bellissima. Nico Fidenco. Sì, Nico una sigla fantastica, me la sono dimenticata. Ha scritto anche Don Chuck Castoro, Nico Fidenco. Esatto. Madonna! Sì, ma Sam ragazzo del West, guardate che era veramente una sigla stupenda. Non l'abbiamo messa, mi sa, nell'elenco, però veramente era. Che iniziava con un fischio, se non ricordo male, con un fischio armonico. Sì, era poi, molto bello, ma non le possiamo mettere tutte, però. Lo so. Però è bene ricordarle. Rudo Boy, Rocky Joe, ce n'è. E Rocky Joe c'è dopo. La faccia nel vento, il ferro nel braccio, ti guardi d'intorno con gli occhi di ghiaccio. Io so, pronto, Me lo ricordo perché lui c'ha gli stessi disegni dei Babil Junior, questo. Metti anche le, allora metti l'inizio di Don Chuck, dai, che facciamo Nico Fidenco. Don Chuck Castoro, aspetta. Aspetta. Di un lampo, se tu lo decidi, nessuno ha più scanto. Madonna, comunque Don Chuck Castoro è un brutto forte, Don Chuck Castoro. Castoro. Don Chuck Castoro. Don Chuck Castoro, Don Chuck Castoro. Ma se è brutta sta canzone, brutto proprio il cartone animato, brutti loro, c'era il dottore che era una capra, tipo, te lo ricordate? Sì, sì, sì. Vabbè, comunque sempre giapponesi. Vabbè, arriviamo Chopin. Vabbè, basta, tira fuori anche Chobin, che è la fine. Chobin, oh, point, Chobin. Point, no, point. Scusa, no, no, c'ha ragione, scusa. Chobin, come point, si scriveva point, Chobin, point. Però, scusate. Chobin. Chobin, okay. Esatto. Chobin, sigla. Facciamo le sigle brutte, allora, adesso. No, no, ma mi hai aggiunto Conan o no, alla fine? Cioè, sennò io dopo, dopo, te la metto come sigla finale, perché per rispetto... Okay. Oh. Vabbè, questa era una... cioè... io lo guardavo, Chobin, per carità. Si mangiava i tavoli. Da zozzeria. Le gambe dei tavoli. Gli uomini duri, tutti hanno visto Chobin. No, no, io l'ho visto, però la zozzeria. Io l'ho visto, ma non mi piaceva. Chobin. Oi, oi, oi. Ah, che poi c'aveva sto braccialetto molto elegante. Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, Carlo, riprendi il controllo della situazione. Ha un cartone animato che ha causato danni nella cultura italiana irreparabili. Una Madonna, addirittura. Si tratta del cartone animato che si chiama Ryu, il ragazzo delle caverne. Sì. Perché questo cartone ci ha fatto credere che gli uomini e i dinosauri convivessero. Secondo me, tra l'altro... Pochissimi italiani sono convinti di questo. Vabbè, per colpa di più del ragazzo delle caverne. No, lì perché ci stanno i creazionisti che dicono che giustamente. Allora aspettate, che ma so che c'è stato un un'interpellanza parlamentare. No. Forse se non sbaglio era stato Roberto, eri stato tu a pubblicarlo. Se non sbaglio, uno studio europeo in cui veniva fatta una domanda. A varie nazioni europee su se gli dinosauri e gli uomini avessero vissuto insieme, e quelli che avevano risposto sì per la maggioranza erano italiani. Perché si ricordano di un ragazzo delle caverne. Però la canzone è finita. Chi ha la sigla iniziale che sentiamo adesso e la sigla finale che mettiamo dopo? Ah, una sigla finale. Eh sì, ragazzi, stupenda, anzi forse più bella ancora. Comunque Deborah ci ricorda che Albano ha detto che l'essere umano ha sconfitto i dinosauri. Sì, sì, è vero, ha ragione. È quello di Jurassic Park. Riuva, ragazzo senza età. E poi nel cartone lui è bianco e tutti gli altri sono neri. Non si sa come fa. Eh beh, perché è una figura cristologica, no? Esatto. Che poi la sigla finale è bellissima perché è una sigla, un lento molto bellissimo. Io tra l'altro ricordo più questa che quella di prima. Esatto. E questa è la sigla finale. Molti ricordano di più la sigla finale. A me pareva il contrario. Il famoso. Infatti anch'io pensavo che fosse il contrario. No. È così. Milioni di anni fa è la sigla finale. Okay. Comunque la figura psicologica. Una preghiera quasi. Per essere sicura, per la cronaca. Sì, ma, sì, ma se parlate quando c'è la musica alta non vi si sente, ditemi. La figura cristologica dovrebbe essere scura perché era medio orientale, anche se in Italia. No, noi l'abbiamo trasformata, no. Non in Italia, il mondo occidentale l'ha trasformata. Con la barba hipster e gli occhi celesti, insomma, su, dai ragazzi, insomma, scherziamo su sta cosa. Perché... Vabbè, col tirannosauro cieco, lui bianco con la lancia. Che poi, tra l'altro, se voi ci avete fatto caso, secondo me lui e il tirannosauro si rispettavano. È vero. Se volevano bene a fine. Vabbè. Che è Giorgia Lepore comunque questo, o ricordo male? Sai che non l'ho guardato, credo di sì. Era molto piccola e poi farà la canzone allora che metteremo alla fine. Facciamo le trasmissioni approssimative, mica che stiamo qui a fare cose serie, insomma. C'è una sigla, sigla, no? Super Robots, i Super Robots che cantavano la canzone di Grand Prix. Rock Time Radio. Rock Time Radio. Disse no, ma il cuore è più potente. Che merda sta canzone. No, era bella, era bella. No, è merda. Bella circa. Takaya, come cavolo si chiamava? È bella circa. È come un bolide. A me piaceva Takaya Moroboy. No, questo cartone ci ha fatto sognare di guidare macchine a cui si potevano cambiare i motori a scelta, no? Con il V2, V3, V5. No, ma scusa, questo non era quello che faceva la fiamma blu? Sì, allora quello era Ken Falco che cambiava il motore. Vedi, ti ricordi il cazzo? Qual era allora? Ti ricordo un cazzo. Cioè. Sì, ma queste macchine nei cartoni animati potevi fare tutte le modifiche che volevi. Azionato. Era molto bello, era Takaya Moroboshi, mentre Ken Falco aveva tutti i vari V e i cattivoni. Cattivoni. Non siete comunque preparati. Tutti i cartoni di macchine, uno più. Facevano schifo tutti, proprio. Cioè. E non mi piacevano i cartoni di macchine. No, quelli di macchine no, però mi ricordo che c'era quello che faceva, c'era il post bruciatore blu, no? Che era, praticamente era tu facevi la cosa stupida è che tu facevi tutta quanta la corsa normale, poi a un certo punto non si sa perché, cioè lo potevi usare subito, scusa, era che palco quello. Ma l'hai messo Gattiger allora, se parli di macchine? No Gattiger no, super Gattiger. Tra l'altro ragazzi, io ce l'avevo il Gattiger, ce l'avevo completo, si tutti univa. Ce l'avevamo, è stato uno dei giocattoli. Oltretutto il super Gattiger era uscito anche con le patatine San Carlo, in cui c'era la collezione di tutte le macchinine di plastica fino a costruire il supercar. No, io ce l'avevo bello grosso di metallo, ragazzi, non scherziamo. Primo, vai di Gattiger, che cioè non potete non aver messo supercar. Vabbè, prima c'è questa, oramai l'ho messa. Vabbè, Rocky Joe. Ruffi, stai ruttando, più o meno. Tra l'altro, scusa, questo era quello che saliva sull'albero e... Ah no, questo era il pugile. Pugile. Il pugile in galera. Il pugile, ragazzi spoiler. Spoiler. Questa è censurata. Spoiler, questo è il cartone animato più drammatico. Cioè, lui muore alla fine. Cioè... Sì, muore. Anche se da noi fanno una versione dove non è proprio che muore. È un po' come in Boris, no? Muore a metà. Ah, non sono morto, sto in coma. Che cazzo mi festeggio? Sto in coma. Ah, però era bello. Rocky era bello. Questo era bello, sì. Devo dire. Io lo amavo moltissimo. E soprattutto rispetto a Tiger Man, che secondo me era troppo violento. Cioè. Della violenza ed è... Questo è precedente. Tiger Man è uscito nell'82 da noi. Quindi è arrivato prima a Rocky Joe. Vabbè, che poi non so se Rocky Joe si chiamava proprio così, o per se prendeva spunto da Rocky Balboa, chi lo sa. E immagino. Vabbè, sicuramente sì. Prossimo cartone è la sigla, una delle sigle più famose della storia dei cartoni animati giapponesi in Italia, perché è la famosa sigla Travisata, o Travisata in realtà. Ma che Travisata? Travisata un cazzo, cioè. Perché è proprio così. Che poi era geniale questo cartone animato, Bellissimo. Molto sottovalutato, molto comico, facciamo ridere. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è graziosa e birichina, Pollon il suo nome è. Pollon combina guai. Che introduce la nostra Cristina D'Orzo. Purtroppo sì. Vabbè, ma qui ancora dai. E qui era le sue i suoi primi tentativi. Io allora innanzitutto vedo che Deborah c'ha insomma una bella cognizione, insomma. Ashita no Joe si chiama in verità, quindi vuol dire Rocky Joe. Interessante. Aveva la chiamato Shite, noi Rocky. Aveva la Shite, ecco perché. No, perché siamo noi che l'abbiamo chiamato Rocky. Infatti immaginavo, guarda, una cosa del genere. Tra l'altro io Cristina D'Avena mi fa venire in mente il giorno in cui a Putignano non riuscivo più a camminare, perché a un certo punto mi sono accorto che c'era un palco col concerto di Cristina D'Avena e giù in fondo io ho gridato: "A Cristina ci hai rotto i coglioni". E tutti si sono girati e mi volevano linciare, quindi sono scappato. Insomma. Allora pensavo che ti applaudivano. No, stavano tutti lì a vedere il concerto. Insomma, vabbè. Io poi ho visto veramente c'ha dei super fan. Comunque, Pollon è carina. Sì, dai, Pollon spacca. Pollon era molto bella. E poi diciamo il pezzettino incriminato: qual è? Quella della polvere. Sembra bianca. Polvere, non è? Esatto. È cocaina, della droga. Esatto. Sembra talco, ma non è. Vabbè. Comunque, poi abbiamo un altro che ho messo perché è stata una. Scusate se taglio così bruscamente, ma purtroppo, come ho detto, è tutta colpa di Carlo Sant'Agostino. Che mi ha traumatizzato la vita perché io mi chiamo Carlo e quindi mi prendevano in giro con la sigla di Carletto, il principe dei mostri. Beh, ve lo ricordate? Penso se t'avessi conosciuto l'avrei fatto anch'io, sa? Sono il mostro. E abbiamo ancora qualcuno che si chiama Carletto, Sì. Carletto Mazzone? No, Paganini che lo chiama Carletto. Ah, giusto. Paganini mi conosce da quando ero Carletto. Questo era carino. Non mi faceva impazzire, però era carino, dai. Serve a darti l'allegria, hai ragione Claudio, ma infatti secondo me non c'era niente di travisato, cioè, secondo me era una cosa voluta. Vabbè. Vabbè, sì. Comunque Carletto, bella Carletto, bravo Carletto, bravo. Vabbè. E poi abbiamo Tigerman, che è cantata da Riccardo Zara del 1982, citata prima da te perché lo preferivi e preferivi Rocky Joe all'Uomo Tigre. Beh, diciamo l'Uomo Tigre, che non è che li preferivo, erano pure due cose abbastanza diverse, però diciamo che facevo fatica, perché Tigerman era veramente violento, ragazzi, cioè, io ero comunque ragazzino molto sensibile, giocavo con le barre. E non dico altro perché sennò poi c'è il nostro ascoltatore che non può far sentire il podcast alla la figlia. Quindi Tigerman era basato su un personaggio realmente esistente di Tiger Mask, lottatore di wrestling giapponese. Sì. Il Catch. Con Antonio Inoki. Antonio Inoki, grande che mi hai ricordato. E niente, lui era tipo un assassino, no? Faceva parte di questa tana delle tigri, che erano dei sicari, poi però lui li tradisce e quindi questi approfittavano degli incontri di lotta per provare a ammazzarlo in tutte le maniere. Ma io mi ricordo la famosa scena dell'avversario, l'uomo pisello. Non so se ve lo ricordate. Quello verde? No, che verde era. C'era tipo una biglia in testa. Cioè, veramente. Vabbè, insomma, non so neanche come descriverlo, ragazzi. È vero, me lo ricordo. Te lo ricordi? Dai, l'uomo pisello, dai. Sì, sì. È vero, hai ragione. Vabbè, dai. Comunque, qui hai aggiunto qualcosa tu, Simone? Io no. Antisignano di tutti i camperisti viaggianti YouTube. No, l'ho aggiunto YouTubers. Io, ma non puoi saltarlo, dai. Puoi saltarlo. Che cos'era? Era per gli story di Giorgia Lepore. Sì. Che per mia moglie mi ricordava. Sappi che non l'ho mai visto io. Esatto, è una cosa per ragazze, ma è praticamente. Ma cos'era? Pelin Story. Viaggia con una sorta di caravan per tutto il mondo e fa la camperista. Vabbè, insomma. Senti, per tagliare Star Tuono, no? Così, non so. Vabbè, se fa parte Oscar, dell'ordine. Però, forte, sì. Se 1982 Cavalieri Carrera. Se Fujiko è stato il sogno erotico di tanti noi dei ragazzini. Qui c'è la prima scena di molestia sessuale, anche se involontaria, insomma, tutto sommato. Se vi ricordate la famosa scena in cui André strappa la camicia a Lady Oscar e gli vede che c'ha le zizze, e quindi lui dopo 50 anni sei un coglione, diciamo la verità, André sei un po' un coglione, diciamo, capisce che lei è una donna e non era un uomo e che probabilmente, insomma, è un po' ambiguo sto cartone animato per l'epoca, però era figo, bello, Lady Oscar era figo. Grandissimo successo in Italia, quintali di tonnellate di amanti del cartone che seguono ancora oggi le gesta di Lady Oscar e i Cavalieri del Re hanno praticamente messo l'ipoteca su tutte le loro case grazie a questa canzone, cioè hanno, si sono pagate, diciamo, tutti i mutui possibili e immaginabili. Se poi dice in quegli anni i Cavalieri del Re hanno fatto una paccata di successi e di soldi. Non solo con questa canzone, insomma. Beh, questa è un'altra di quelle canzoni che penso che hanno cantato tutti nella vita, insomma. Senza né me, né se, né ma, né bleb, né blub, blab. Allora. E qua adesso ho messo la sezione Cristina D'Orzo. Allora, considerate che Cristina D'Avena a un certo punto, non si sa bene perché o per come, ha iniziato a monopolizzare tutte le sigle dei cartoni animati. Questo succede più o meno alla metà degli anni 80. Io ce l'ho la risposta, se vuoi. Insomma, è la stessa che danno in Boris per sapere se tu vuoi fare la fiction o non la vuoi fare, insomma. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù. Un cazzo è poco più, scusate, però me l'ha chiamata. E il grande successo di Cristina D'Avena, pur avendo fatto delle sigle precedenti, inizia dai Puffi. Puffi è il primo, diciamo, successo planetario italiano di Cristina D'Avena con la canzone dei Puffi. Puffi, ricordiamo, opera belga. Belga, assolutamente. E tra l'altro adoravo il cartone animato, ma molto bello era anche il lungometraggio, quello con Solfami, non so se ve lo ricordate, se l'avete mai visto. Solfami! Dai, l'avete visto, su. Portarci quasi, l'avete visto il lungometraggio dei Puffi? Ma non nei film. Ma quello recente? Ma dice. No, sarà degli anni 70, 80, guarda, proprio... Cioè, questo lungometraggio proprio. Ricordo poco dei Puffi. Non ti piacevano i Puffi, eh? A me invece mi piacevano. No, a me piacevano i robottoni. Dei robottoni, che palle, sti cazzo. Erano molto tenaci. Sì, io guardavo, tra le cose, guardavo anche i Puffi, ma io ero già un po' più grandicenno. Per me i Puffi erano un po' così. Allora, un po' Chi smilicia mi rifiuto di metterlo, mi dispiace, mi rifiuto proprio. Chi smilicia più che altro perché è importante citarlo, perché diventa poi un telefilm recitato proprio da Cristina D'Avena. E che proprio quello mi rifiuto di metterlo, perché veramente lì è. Cioè, no, ma nasce come cartone animato giapponese. Un abominio, sì, tanto sì. E muore successo, tanto successo che diventa una serie TV italiana. Un abominio. Cortizio là con il ketchup spruzzato sulla fronte. Dai. Ma come si chiamava il gruppo di cose? I Beehive, giusto, è vero. Però questo lo metto. Per quando andava il re, questo sono un po' in seguito di cantare negli anni 70, che abbiamo visto noi. Le Shiro era la versione 2. Scusa Carlo, però prima fai sentire un po' il brano, poi io abbasso e tu parli, perché sennò non si sente né il brano né te che parli. Vabbè. Beh, c'è anche tu il forte di cantare, vai Carlo, parla adesso, ti ho abbassato. Mannaggia la puttana, dopo 50 anni di podcast, vai. E 50 anni è arrivato lui. Vabbè, è uguale, è come se fosse. Ne fate più voi di podcast che io, ne faccio pochi. E mo non parla. Mo non parla più, sei offeso. Dai, raccontaci. Ho già parlato. Ma non l'abbiamo sentito, però è quello il problema, quindi ricomincia. No, stavo dicendo che Mila e Shiro fa parte di quello che dicevamo prima, cioè sono le versioni anni 80 di quei cartoni che abbiamo visto negli anni 70, quindi è il seguito di Mimì Aiwara, poi è seguito da Mila e Shiro, Due cuori nella pallavolo, ma sempre di pallavolo. Forse più questo però, secondo me era più famoso rispetto a quello di prima. Tra l'altro poi c'era pure quello del tennis, Jeremy and Jenny, lo ricordate? Sì, poco, te lo ricordo, ma c'era anche quello del golf, per questo c'era. Come si chiamava quello del golf? Quello del baseball anche. Tra l'altro c'era uno del baseball, però è molto più recente, che era stato completamente italianizzato per ragioni di cui io non ho mai capito il motivo, dove tutti si chiamavano un po' come di Bolli e Benji, con i nomi occidentali, ma si chiamavano con i nomi italiani. Poi a un certo punto c'è una scena dove uno con una palla praticamente rompe lo specchietto della macchina, accidenti, dovremmo risarcirlo, saranno almeno 100.000 lire. Ma perché? Cioè, io mi sono sempre domandato, ma perché? Sai come? Comunque sia Claudio, John e Solfami. Esatto, bravo, vedi che te lo ricordi, qualcuno se lo ricorda. Ce l'ha, ha detto che ce l'ha, bene, fa piacere. Certo. Metti BI e poi l'altro era Holly e Benji, Due fuori classe, perché ovviamente da lì. Però siamo andati. Secondo me con Holly e Benji siamo fuori dal nostro range, diciamo. 86 è uguale a Mila e Shiro. Ah, sì, lo sapevo, pensate. Vabbè, questa è una canzone troppo moderna, non è quella originale. No, questo non è l'originale. Esatto. Aspetta, te la cerco io, è l'originale. Aspetta. Si chiama questo qua, cazzo. Scusa, sfuma, sfuma. Non sono stato io, non guardate me. Sono i tuoi file. Quello che cantava no, i file non li sono a cazzo. Di Cristina D'Avena, che non mi viene il nome. Come si chiama quello che, quello che cantava i Pokémon? Esatto, Pokémon, ho capito. Lui è il mascolino di Cristina D'Avena. Ah, sì, ho capito chi è. Sì, sì, vabbè, quello che canta pure tante volte con lei in coppia. Quindi... Esatto, esatto. Mo non mi viene adesso il nome, perché io non sono né un fan. Vanni o qualcosa che Vanni. Gianni, sì, sì, bravo. Vanni qualcosa, sì. Vabbè, comunque. Era la versione del 90, quella che stavi mettendo su. Comunque, Holly e Benji, comunque famosissimi perché hanno questo mondo praticamente microscopico in cui tu vedi la curvatura dell'orizzonte. L'orizzonte del campo, e la gente riflette. Eccola, questa è quella originale. È il cartone animato odiato dai terrapiattisti. È vero, hai ragione. No, diciamo che Holly e Benji. Dove in un campo che ricordiamo, un campo è lungo 150 metri almeno, sì, cioè, diciamo, a me sembrava 1500, diciamo, ed era, c'era la curvatura della terra sul campo, e le persone prima di tirare o passare la palla avevano il tempo di riflettere sui massimi sistemi e sull'universo. Poi, tutto. Quanto dura una partita di calcio di solito? 45 minuti, ma su Holly e Benji dura almeno 6-7 puntate. Questa è proprio... Esatto, quindi durava 3-4 ore una partita di calcio. C'erano puntate che duravano, un tiro che durava una puntata, con riflessioni, esatto. Momenti di pensiero, di storica, eccetera. Sì, aspetta che Deborah ha suggerito una cosa, voglio vedere se la trovo. Io non sinceramente il titolo non mi dice niente, però vediamo, forse a voi vi dice qualcosa. Tutti in campo con Lotti, sigla originale. Ma sì, yes. Ecco, quello del golf. Sì, quello no. Che ah, vedi, golf, vedi, no? grande. Passiamo, però, poteva partecipare a questo punto. Cioè, anzi, la invitiamo a fare una playlist. Così fra un paio di mesi facciamo un'altra puntata dedicata alle sigle dei cartoni animati, magari vista in chiave. Femminile, magari faccio una bella playlist, insomma, e ci ritorniamo sopra e ti ospitiamo, anche se tu sei relativamente giovane per quando eravamo futuro, però insomma vedo che stai recuperando e già questo è, vabbè, comunque è... Lotti era quello del gol, ma noi accettiamo consulenti, la puntata dove lui difendeva un bambino contro i bulli della scuola, Lotti. E questa puntata mi è rimasta impressa perché praticamente lui difendeva il bambino, perché è autobiografica, ma non picchiando i bulli, ma mettendosi al posto del bambino e dicendo picchiate me, e allora lui si mette lì a cubo cristologico, si mette lì così e lui si fa menare praticamente al posto di questo bambino. E questa puntata me la ricordo proprio. Ma carti meno roba, Doraemon l'hai messo? No, non l'ho messo. Ho messo però dopo la, secondo me, di Cristina D'Avena. Cristina D'Avena ne ha fatte tante e noi la odiamo particolarmente, però a parte Pollon, che a me piace, un'altra canzone di Cristina D'Avena, una sigla che è rimasta nella storia, secondo me è ancora bellissima, esatto, è Occhi di Gatto. E qui altri sogni erotici per i ragazzi de... sì. Queste poi tutte e tre, come dove coglievi o facevi un salto della danza. Più che altro secondo me era un sogno erotico femminile, perché ho come l'impressione che fossero, come posso dire, no, quella no. Parte là No. Sono esperta di sigle, ne conosco tante e penso che conoscano in pochi. Vedi, e allora dai, è candidata Deborah per fare una nuova playlist. Facciamo le sigle sconosciute. Brava, bella, bel tema, mi piace. Bella, quando eravamo futuro è un ottimo tema. Quindi prepara una playlist, massimo 15 canzoni. Non fa come Carlo Sant'Agostino che a 3 minuti dalla sigla comincia a scrivere sul documento, no? Il tempo è quello che è, però non sono stato io a scrivere a 3 minuti no, è vero, stavolta Davide, è vero, hai ragione. Ho aggiunto tre brani, ma Davide poi a caso, cioè cose a casaccio, insomma. Occhi di Gatto comunque è bel, cioè no, non mi piaceva, devo dire la verità, stava un po' su, però insomma si lasciava guardare per altre questioni. E qui andiamo un po' a concludere, perché poi da questo cartone qua io mi ricordo che poi sono diventato grande. Non penso di guardare i cartoni per sbaglio, sei diventato grande, purtroppo. Esatto, anche questo l'ho guardato tutto e devo dire che almeno io me lo ricordo anche la sigla come una delle pietre miliari della nostra gioventù. E si tratta di Ken il guerriero. Io avevo 21 anni, ragazzi, non lo guardavo nel proprio. 1986 facevo già le superiori, ma no. Io lavoravo. Da una mai vita. Scorderò l'attimo la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli ha colto il sole sopra la città senza pietà. Allora io dico due cose. Questa è un'opera che secondo me ha trasceso le generazioni, perché comunque è stato un cartone animato coi contro, come si dice, e che ha milioni di fan veramente in tutto il mondo. Ma anche in questo caso devo dire, era un cartone che io guardavo poco e niente. E quindi mi è rimasta questa non empatia verso il cartone animato, perché era un cartone animato molto violento, ma molto violento. Ma questo eravamo proprio anche splatter, questo sì, questo perché poi esplodevano le capocce, cose del genere, sì, e devo dire che nel contesto era appropriato, perché comunque raccontava quel mondo post apocalittico, sì, con quello era, cioè, ispirato ovviamente a Mad Max chiaramente, sì, e prendeva un po' tutte le, diciamo, il post atomico, il mondo dopo la guerra mondiale con le bombe atomiche, insomma tutto quello che era la mitologia del periodo, insomma, sì, di quella, sì, fine, esatto, degli anni 80. E poi, come ricordiamo sempre, negli anni 80 c'era questa cosa incombente, no? Sempre e molte opere richiamavano a questa che secondo noi era la nostra più grossa preoccupazione, no? Il fatto di una guerra termonucleare che avrebbe sicuramente, insomma, reso le cose difficili a quei pochi che sarebbero sopravvissuti, insomma. E devo dire che Ken lo apprezzo per la, veramente per, anche per quanto me ne hanno parlato, per quanto in realtà l'opera è veramente riuscita a sopravvivere anche al tempo, perché secondo me ancora oggi è straguardabile. Però ecco, io sì, purtroppo sì, l'ho riguardato recentemente la prima serie e devo dire che, al contrario di quello che pensavo e al contrario di moltissime altre serie di cartoni animati di quegli anni, regge il confronto degli anni, cioè è un qualcosa che si riesce ancora a guardare anche oggi come non come è invecchiato male. No, non è assolutamente invecchiato male. Beh, ragazzi, guardatevi il remix di Star Blazers, che è spettacolare, per chi non senso? L'avesse fatto. Che cos'è? Il remix, il remake, ovviamente. Sì, ma sai, i remake sono una cosa, guardare la serie originale dell'epoca un'altra. Sì. Perché è certo che i remake, perché come ho detto prima con Capitan Harlock, oggi tu vedi Capitan Harlock, certo, e ti rendi conto che c'era tutta l'ingenuità e il target dedicato a quel tipo di pubblico, e che oggi ti fa ridere, no? Capitan Harlock, esatto, oggi, tutto quel carisma che aveva verso di te quando tu eri piccolo, oggi invece vedi un cartone animato che è una stupidaggine, cioè nel senso, cosa che invece non succede con altri. Per esempio, se riguardi Heidi la guardano ancora, esatto, oggi, Heidi, Candy ancora possono funzionare, ma Ken il guerriero secondo me appunto è un cartone animato che trascende le generazioni, proprio perché comunque era molto potente da questo punto di vista. Io direi, oltretutto, che sì, mi dà l'opportunità di chiudere con la pagina dopo, non so se l'hai vista, forse non l'hai vista l'ultima pagina, gli ultimi pezzettini inseriti, dove ho scritto le sigle giapponesi in Italia, perché che mi dà l'opportunità di introdurre questo, perché noi siamo sempre stati abituati ad ascoltare le sigle tradotte in italiano o alcune rare in inglese. Però, no, scusami se rido, però scorrendo il documento c'è Conan gigante grande, eventualmente qualcuno si dimenticasse. Esatto. Conan. Vabbè, scusa. No, le sigle giapponesi in Italia, perché in realtà Ken, la prima serie viene trasmessa con questa canzone, esatto, in italiano, sì. La seconda serie viene mantenuta la canzone originale giapponese, ed è stato uno dei pochissimi casi. Beh, qualche volta c'è stato. Sì, infatti l'ho segnato. Le altre che mi ricordavo li ho messi. Questa è Ken, originale giapponese, che poi molto rockettara. Sì, beh, un metal questo. È stato grande, sì. Questo un metal cantato de merda, però. giapponese. Mamma mia. Un mezzo inglese, mezzo giapponese. Ma è la merda la voce. Era meglio quella italiana. È orripilante, no, questa cosa. No, ma poi parte, capito, con tutta sta base metal sotto, da aspetti, capito, un po' un gruppo. Ci sono stati tanti remake poi di questa canzone, fatti anche da gruppi italiani che hanno rifatto questa canzone metal, ma ascoltata, cantata bene. Va bene, grazie canzone, grazie. L'altra che mi ricordo, giapponese, cartone animato giapponese, che la sigla è rimasta giapponese, è Hurricane Polymar. Ve lo ricordate, Hurricane Polymar? Hurricane Polymar, non ricordo, sì. Come no? Sei bravo, bella. Giapponese. Ed era la canzone in giapponese. Polymar. Anche Tekkaman lasciarono in giapponese, se vi ricordate. Comunque Hurricane Polymar era figo, ragazzi. Ecco, un altro cartone. Questa era quella di Hurricane Polymar, di giapponese. Fa ridere in giapponese. Sì. Dice Deborah che la canzone di Ken in giapponese è molto bella, ma lei ne conosce un'altra. Linkala se ce l'hai, proviamo. C'era la sigla finale di Ken il Guerriero, sempre giapponese, un lento, molto bello. La sigla di Star Blazers cantata dalla marina giapponese, perché la cantano addirittura tipo il coro dell'Armata Rossa. E dove l'hai messo? Ha avuto un successo folle in Giappone. Finiamo questo trittico intanto con Ho messo la canzone originale di Godre giapponese, perché noi questa ce la ricordiamo non perché fosse la sigla finale o iniziale in Italia, ma perché durante il cartone in alcune scene si sentiva, sì, e quindi a noi è rimasta impressa. Sì. Ah, io ho degli amici che la sapevano a memoria, cioè. È arrivato il pink, che è giapponese, molto bella, eh? Il canale, ciao. Ah, da Deborah, ok, non lo vado. Comunque, raga, Uforbo, sarà che sarà stato il primo. Ma quanto era bello. Rimane sempre. La paga, ma è bello, quello ancora è bello oggi, cioè. Carlo, tu lo sai se per caso la versione italiana in Giappone è arrivata e ha avuto successo o non se l'ha cagata nessuno? Non se l'è cagata nessuno, posso confermare. I giapponesi di italiano andavano a sentire la BFM, giustamente, cioè capivano un po' di più, sì. Giustamente. Questa è quella di Ken il Guerriero. Sì. Vedi già. Sì, questa sì. È proprio che però i giapponesi non ce l'hanno la. Come si dice, la canna per cantare sta roba. Però è bella, sì. Questa qua era la canzone giapponese della prima serie, che da noi invece era tradotta, era quella in italiano che ho fatto sentire prima. Questa era la prima canzone di Ken, invece la seconda serie è arrivata con la canzone in giapponese, con la sfigata giapponese che cantava. Guarda che non infatti c'è scritto sigla iniziale Ken il Guerriero, prima serie originale. Vedi, è confermato quello che dici, vuol dire che non dici cazzate, vedi. Questa è bello avere controprove del fatto che ogni tanto ci imbrocchi. Vabbè, adesso mettiamo sta cosa, che sennò continua a ingrandire il font. Un po' esce dal documento. No, ma fai che poi dopo. Aspetta, che mi sono perso il documento invece. Proprio. Allora, ora ti confesso che io mi sono accorto di aver aperto il documento sbagliato praticamente a fine trasmissione. A posto. E quindi continuavi a mettere sto file sempre lì, vabbè, dai. Quello dei dischi. Ok. Ragazzi, io sapete che ho iniziato recentemente a rivedermelo su Amazon. Conan è molto bello. Tra l'altro l'hanno restaurato e reso in 16 noni senza stracciarlo, quindi evidentemente ci hanno fatto anche un bel lavoro sotto. E Conan, ovviamente anche questo opera romanzesca, insomma, importante. È un cartone animato straordinario che a me mi ha emozionato in una maniera incredibile. È una grande storia d'amore e d'amicizia, se voi pensate, in un contesto ovviamente sempre post. Vabbè, ma sai chi è l'autore di Conan, no? Sì, dai disegni, diciamo. E Hayao Miyazaki. Dai disegni e Miyazaki, poi sai, insomma. Sì, no, ma è anche ideatore della serie di Conan, cioè proprio l'ha ideata lui. La storia, la regia e il character design, ovviamente, e quindi è... Ragazzi, no, è tutto bello. Aspettate, no, perché Deborah ha scritto, io l'ho visto per la prima volta 3 mesi fa, carino. vabbè, ma se lo vedi adesso, ovviamente, lei ha... Guardavo carino, Conan... Basta, chiudiamo la radio. Perché lei, se tu ti guardi... No, scusami, Simone, è logico, perché se tu ti guardi prima tutti i film dello studio Ghibli, tutto quello che Miyazaki ha realizzato dopo, certo. E poi ti guardi Conan, che l'ha fatto 20 anni prima, è ovvio che... dici carino perché rivedi tante cose che hai già visto, ma in realtà è il contrario, cioè lei deve capire che è stato Conan che poi ha reso possibile tutti i cartoni animati che ha fatto Miyazaki e lo studio Ghibli dopo, okay? Quindi questo è un po', sono un po' le basi di quello che avviene poi in tantissimi cartoni animati, film cinematografici di Miyazaki con lo studio Ghibli, perché troviamo tracce di quello che ha pensato in Conan, in La puta Castello del Cielo, sì, assolutamente, anzi devo dire la streghetta, insomma tutti i film di Miyazaki che ha fatto dopo, in Porco Rosso, cioè c'è sempre una citazione, un qualcosa che in realtà lui aveva pensato quando ha realizzato la serie di Conan. Secondo me è veramente un archetipo di quello che dovrebbe essere. La storia è bellissima, i personaggi sono belli, la musica è bella, il disegno è bello, è una cosa molto curata sì. da tutti i punti di vista. Sì. Se considerate che poi è uscito in Giappone nel 78, noi l'abbiamo visto qualche anno dopo, se non mi ricordo male 81, 82, adesso vado a vedere, non mi ricordo, da noi è arrivato nell'81, infatti è un cartone del 78 in Giappone, è arrivato da noi nell'81. Posso dire una cosa? E Nausicaa anche. Posso dire una cosa? Nausicaa. Se volete veramente piagne, ma proprio che volete piagne, e io soltanto risentì la musica già mi viene da piagne. Penso insomma che avete capito di che cosa stiamo parlando di Miyazaki, chiaramente, anche se non so se è proprio, cioè è dello studio sicuramente, non so se però studio Ghibli però non so se è sua l'opera, che è Una tomba per le lucciole. Ah sì, vabbè, che ragazzi, molto recente queste, nonostante essere un film, perché lo chiamiamo un film, no, diamogli anche una dignità in qualche maniera, che te lo dice all'inizio come finisce, perché all'inizio te lo dice come finisce, ciò nonostante un colpo ogni minuto che passa dalla metà in poi, praticamente è una tragedia incommensurabile. Racconta in maniera, secondo me, poetica da un certo punto di vista, ma anche molto severa, tutto il Giappone post guerra e tutto quello che ne è conseguito, insomma, dalla guerra, non soltanto dal fatto che loro pensavano di avere la marina più invincibile, no? Di essere l'impero intramontabile e via dicendo, e si sono ritrovati di fronte a una realtà diversa, ma che il costo economico e sociale che hanno pagato per la guerra ha portato milioni di persone a morire di fame in mezzo alla strada. E questo cartone animato, ragazzi, è meraviglioso, cioè bellissimo, confermo, ve lo dovete assolutamente vedere. Niente, va bene, dichiariamo chiusa la serata. Delle sigle anche. E la serie delle sigle per la felicità di Simone, per un bel po' non faremo più. Io ho messo in chat quella che per me è la più bella in assoluto, ma è off topic, quindi non la riproduciamo. Vabbè, la riproduciamo e poi ci chiudiamo. Dai, facciamo così, guarda, facciamo che chiudiamo con questa che la conosci? No, aspetta, non ho ancora visto. Ci vado, lo clicco e poi andiamo a salutare. Off topic perché è un po' più tarda. Tarda come 95 è molto più tarda. Vabbè, pure Una tomba per le lucciole tarda, insomma. Sì, insomma, infatti ormai abbiamo sforato ovviamente. Ah, ok, sì. Vabbè, Akira. No, è Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ah, Ghost in the Shell. Sì, però anche Akira inizia con qualcosa di sonorità simile. Sono simili, sono simili. Anche se Akira gli darà una pista a Ghost in the Shell, però insomma... Sì, anche secondo me. Secondo me no, secondo... però per altri motivi, però, perché non è... Cioè, o meglio, il fumetto sì, per me l'anime non è fatto bene, è tagliato male, non si capisce bene dove volevano andare. Guarda, io ho letto il fumetto di Ghost in the Shell e non mi è piaciuto l'anime, devo dirti la verità. Ho preferito il fumetto. Sì, ma però, almeno ha un senso la storia. Gusti. Se tu vedi Akira, per come è tagliato, non si capisce quasi niente. Vabbè, ragazzi, questa è la parte finale, insomma. Cioè, andiamo a concludere questa ennesima puntata sulle sigle con sotto una cosa che... io Doraemon lo adoravo perché, cioè, mi sarebbe piaciuto avere un fregno che ti tirava fuori dalla saccoccia un qualsiasi cosa che ti avrebbe risolto ogni problema, però poi se sei stupido dentro nessuno ti potrà mai risolvere il problema della stupidità. Ma detto questo, io ringrazio, perché poi alla fine, cioè, è faticoso per me gestire una puntata come questa, però è chiaramente le puntate delle sigle, raccontare anche un po' l'emozione che ti ricordi, diciamo, di 40 anni fa, di 35 anni fa, insomma, quando vedevi determinate cose, è chiaro che è impagabile, no, per quelli della nostra generazione. È bello il fatto che comunque anche i ragazzi più giovani in qualche maniera sono curiosi e approfondiscono cose che chiaramente nel tempo sono diventate anche leggendarie, no? Ma non soltanto dal punto di vista della costruzione dei cartoni animati, ma appunto le sigle, ragazzi, gli anni 70 e 80, col progressive, col rock, con tante contaminazioni e sperimentazioni, soprattutto perché spesso si sperimentava su quelle canzoni, perché magari sulle canzoni più commerciali non si sperimentava di meno. Quindi grazie Carlo, insomma, di questo ennesimo viaggio. Yes. Bene, bella puntata. Saluto Massola. Quindi invitiamo Deborah a fare questa playlist, e così poi fra un mese, due mesi, insomma, ci ritorniamo e cerchiamo, insomma, di fare magari le canzoni sconosciute dei cartoni animati. Magari se sono 70-80 è meglio, insomma, diciamo, sennò poi facciamo veramente un po' usciamo un po' troppo da quello che è la mission di questa trasmissione. Detto questo, quindi io ringrazio e saluto Davide Gatti. Bene, dai, buonasera a tutti. Io ho fatto una partecipazione più quasi d'ascolto, perché essendo un po' più anziano ero un po' shiftato più in altri periodi rispetto a voi. Quando vi davate tutte queste cose io ero già troppo, troppo grande, sono saltato fuori prima. Però chiaramente i ricordi ci sono su tantissime altre cose. Io li ho guardati sempre un po'... Desguincio. Sì, sempre desguincio. Cioè, non riuscivo mai a vedere una serie completa dall'inizio alla fine, sapere come andava a finire. Magari anche voi tanti non sapete com'è, come, o lo avete saputo dopo come sono andate a finire. No, noi lo sapevamo subito. Certo. Noi lo sapevamo anche prima. Avevate già internet, esatto. Non me l'avete detto. Ragazzi, stacca. Salutiamo, vabbè. Roberto Tomaiuolo. Ah, scusa, ciao, Davide, stavi finendo. Scusa. No, stavo salutando e basta. Okay. Solo salutare tutti. Vai, Rob. Ciao, grazie a tutti, ma non vi preoccupate, metteremo ancora altre 12 puntate di sigle. Ciao ovviamente anche a Carlo Sant'Agostino. Vi ricordo, ragazzi, che se andate su runtimeradio.it trovate chiaramente la possibilità di contribuire, diciamo, insomma, al progetto di Runtime con delle donazioni, ovviamente facendo una donazione singola, e ringraziamo tutte le persone che in questo mese in particolare hanno fatto diverse donazioni su PayPal, e ovviamente anche donazioni ricorrenti. Ringraziamo tutti quelli che tutti i mesi, insomma, contribuiscono al progetto di Runtime Radio. Anche donazioni alimentari. Allora, quelle soprattutto. Ma vi ricordo che il 6 febbraio alle ore 16 per due ore io sarò in live qui su Runtime Radio per festeggiare il mio 50° compleanno, e se volete mandarmi delle domande di qualsiasi genere o un commento, anche dei soldi, anche qualsiasi cosa, insomma, volete, scrivete a runtimeradio@gmail.com scrivendo 50 anni di Simone, e potete mandare il vostro file audio oppure scrivermi magari delle cose che volete, delle curiosità. Racconterò delle cose, insomma, che riguardano la mia vita, sarà una cosa un po' particolare, però insomma mi sembrava metterai delle sigle, giusto, metterò delle sigle, sicuramente. No, metterò comunque delle canzoni importanti per la mia, per la, per la mia crescita, diciamo così, culturale. Nella tua vita. Ok, quindi detto questo, io vi ringrazio, vi ricordo domattina dalle 8:30 alle 9:30 io e Michela con Disordinati Informati saremo live, e poi la domenica, sì, esatto, la domenica ci sarà il meglio di Runtime come sempre, e poi dal lunedì insomma si ricomincia con la solita programmazione. Grazie a tutti, quindi grazie Carlo, grazie Roberto, grazie Davide, grazie a tutti quelli che hanno partecipato in chat, che sono stati molto vivaci, grazie a Deborah che oramai si è candidata, insomma gli tocca, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Mi raccomando, adesso deve partire una cosa che non parte, però la radio è fatta anche di questo. Hello there, Runtime Radio and all your listeners. This is John Fortune here from Dublin in Ireland. Just wanted to say hello to you guys and wish you well.